Dio. Ecco, sono le 10. Ho detto con i fatti tutti chiusi, 2:30. Ecco, ascolta, io ti dico una cosa, adesso tu sei agganciato, no? Allora io ti dico una cosa, che tu nei canali di, del 45 c'è un medio stazionario, perché qua stai andando bene. No, c'è 1:01, c'è 1:01 di stazionario, controllate, non so se ci va mancando. Io qua ti ascolto meglio però, nei canali di su non è compresso. Anch'io ho migliorato, però c'è sempre la compressione, ma ci migliora, non lo deve fare, quel lineare non lo deve fare, perché Gianni con 747 cresce uno spettacolo col Galaxy, ma non uno spettacolo, BBU. Con questo cazzo che è superiore, non ho capito perché, a fatti chiusi c'è questo cazzo di saturazione. Magari sono troppo pochi già, prova a dargliene 4, non 2,5, prova a dargliene 4, 5. Devi sganciare un secondo lineare e fare delle prove. Lo metti prima a 3 watt, poi a 4 watt. Perché l'altro giorno l'abbiamo misurato bene quello lì, uscivi bene. Comunque già scherziati già anche questo. Quello tuo, la matta è nelle varie. Se va di intendere male, ha detto. No, ma non è invece il problema che è proprio l'alimentatore che è sottoalimentato quel coso, no? Gianni è un periodo che ha problemi con questo alimentatore, con queste cazzo di spezzoni, con queste cose, boh, non lo so, io glielo dico per il suo bene, di controllare, buggane tutto, smonta tutto, rifai tutto da capo, spezzone, tutto, perché qua soltanto una settimana preparandomi l'impianto con le contropalle, ma veramente con le contropalle, tutto nuovo, PL, tutto nuovo, giubbotto, tutto, cavi, tutto non si vedeva, perché per usare lineari del genere devi essere proprio perfetto, perché altrimenti basta un niente, non va nulla da fare. E lui secondo me ha quell'alimentatore che non sta andando bene, non lo so. Ma ascolta già, ma tu alimentatori sono quello lì che hai per poter pilotare quello della Gigi? No, è uno da 35. E allora fai una prova, bocca lì Luis, metti quello da 35 e fai una prova, che costa poco, perché non è che è inutile, se dall'altro giorno dice ti fa tic tic tic tic, vuol dire che c'è qualche problema su quell'alimentatore. Cazzo, ce li hai le cose, usale, provalo, fare una prova non costa niente. Ehi, ma questo qua si è spento completamente, la chiedi dalla stradina, tu, e ciu, e la, è vito dai. Vuol dire che c'era il problema, prova quello da 35 e al limite il lineare te lo lasci agganciato da solo e poi con gli altri radio li agganci in un altro alimentatore e il lineare lo lasci solo con quello da 35, boh. Già, una mano dal cielo l'amplificatore da solo, è una mano dal cielo, guarda, io sono Renato, c'è l'alimentatore suo che va solo con il lineare e poi l'alimentatore proxy che mi alimenta le radio. E qua di radio alimentate ce ne sono parecchie, capito? È una mano dal cielo, perché basta un minimo assorbimento, una stronzata e lineare non funziona bene, hai grossi problemi, veramente, io nel 45 non ti capivo quasi niente, mentre invece nel canale 10 ti capisco bene, però sento sempre questa saturazione, quel lineare non lo deve fare, non lo deve assolutamente fare, perché sono dei lineari professionali e non lo deve fare, guarda quello che dico io se lo fa, e lo alimento con 6 watt, 7 watt, 5 watt, cioè dipende dalle radio che commuta, ma sono tutte lì 4, 5, 6, non più di 6, ma cazzo, cioè non lo fa, non te ne accorgi neanche che è agganciato, lì è un casino. Ecco, avanti, chi è? Non ho capito cosa ho detto. Mi chiamo Maurizio. Ciao Maurizio, qua siamo nell'isola sarda, buonasera. Tu che sei in Francia, noi siamo in Sardegna. Ciao, buonasera, 73. Ah, così è. Ah, ho capito, no, noi siamo in quelle di Sassari, nord Sardegna. E comunque un po' dall'accento già si sente, dai. Scusa, buon Natale, buon Natale a tutta la famiglia. Buon Natale. Va bene, dai, avanti qua. Ci siamo un paio di amici qua, dai. Avanti qua. Ciao Maurizio, ciao, ben ascoltato a te, tutta la 10 fattime, non è che il morfo ti ruba, ma già mi sento lo stesso, modulati quasi 30, quindi già va bene. Avanti Gianni, riprendi. Io sono sganciato, figurati. Io 10 fatti o no? Ma fu più ruba già pronto lo stesso da radiolina, già va bene. Avanti Gianni, doppio rum, cambio. Ma pari due. Ehi, cazzo Gianni, qui lo conosco, ci siamo radicati subito, sicuri a terra. Sì, c'è da riprendere un po' bene le cose, capito? Perché in quel mobile che c'ha lui, tutto incasciato, in chiave dentro, c'è qualcosa che a me non mi convince. Non lo so. L'altro giorno stesso si aveva un rumore di alternata allucinante, poi è sparito, e bisogna fare le cose fatte bene. Bisogna fare le cose fatte bene. Non lo so. Io non lo saccio. Ho visto anche il cavo. L'ispettore di RG58, capito, magari collineare necessità di qualche spezzone un po' più buono, non lo so, però è un periodo che Gianni ha grossi problemi. Io non l'ho mai sentito così, è sempre stato bello forte, chiaro, con 747 esce una cannonata, ma ci vediamo, non ho capito perché con quel lineare che è superiore dobbiamo uscire così. Non te lo so dire, aspetta un secondo, mi prendo il telefono qua, che ce l'ho sotto carica. E anch'io ce l'ho sotto carica, aspetta. Eccomi qua, sono arrivato. Poi allora, Claudio è recuperato. Anch'io. Adesso attacco qualcosa, perché non saliva lo Smith l'altro giorno di quel tornado. Adesso lo aggancio perché era un bel tempo fermo, magari c'è condensatura un po' scarico. Boh, adesso dammi un secondo che l'aggancio con l'alimentatore. Via, fai. Gianni, qua sì. Ok, l'ho agganciato, lo lascio un po' acceso. Poi io, positivo, capo d'orologio. Ascolta, ma ci vedi che ho portato forse la radio. La radio va bene qua, la 140? Sì, va bene, voglio. Non è troppo alta, no, neanche troppo bassa, normale. Ehi, già, va bene. Progetto, ma ci vediamo. Né troppo alta, né troppo bassa, va bene. Sì, va benissimo. Ok, Gappa di Roggero, va bene. Sì, adesso mi sembra mi faccio un salto, andare a prendere quella radio da Gigi, a vedere un po'. Sì, prendila. Allora, quella la riprendere subito, la voglio sentire. Va bene che va bene. Gira le balle, si sposta, quando stai modulando si sposta e non si comprende più nulla, anche chi sta ascoltando. Ma quella che è ritirata da Albino. E allora? Ridagli all'Albino, perché fa così? No, non è cosa che può fare Albino quella o Cla. Albino mi ha cambiato il finale di ricezione, di audio. Ma non roba che può allineare Albino quello. Chi ha fatto? La Francesca deve andare a Ciccio. No, se la mando a Leo. Chi l'ha fatta? Leo, sì, ho capito. Perché ci occupa, non sa fare. Sì, però la voglio mandare a Leo, capito? Adesso provo a sentirlo a vedere un po'. Questa va bene. Allora aspetta che cambio il microfono, claro, e cambio radio, un attimo. Aspetta che radio è? Questo adesso no. Va bene, ma l'altra è un piacere, vai, l'altra pompa. Secondo un colpo, infatti sei Santiago 9, Massimiliano. Sei Santiago 8 a picchi di 9, sei troppo basso, c'è qualcosa che non va lì. Massimiliano! Qua ha attaccato l'altro alimentatore, guarda come sta andando. Adesso provo a aumentare anche qua. Prova a vedere uno, due, tre, uno, due, tre. No, già, io lo sento saturo, Massimiliano, attacca l'altra radio a vedere. Massimiliano, io lo sento saturo qua sempre col capo. No, adesso prova a attaccare. Guarda, adesso sono con 20 watt. Come sta andando? Con 20 watt, con 200? Sì, vabbè, 200, già mi hai compreso, scala mia. Ascolta, no, a me mi interessa sapere perché può darsi che quelle che abbia allo stesso problema che c'ha il B300, lo posso usare da 1 alla 4, quinta e sesta mi saltano anche a me. In che marcia sei? Sesta. In sesta. E ti sta dando 200 watt perché sei, con quanti watt di ingresso? 2,5. E con che cosa? Sempre con Galaxy? Appa. Va molto meglio. Capito? Con l'altro alimentatore invece a 2 watt e mezzo, tutti chiusi ti satura lo stesso, così si sente leggermente, ma poco la saturazione già, però è molto comprensibile la modulazione. Guarda adesso, così almeno so quanto devo ottenere, così sono concentrato. 100 watt? K. Così è come che non sia attaccato già, radio spettacolare, proprio bella come sempre, come che non sia attaccato, però il segnale è quasi 9,30, è 9,25. Guarda così, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3. Così cosa hai fatto? Dimmi cosa fai però. Adesso ho aumentato il power al massimo delle gas. E ti porta via la saturazione, io ti sento saturo. Quindi da tenere così. Così tutto chiuso e va bene. Che non tutto chiuso, da lì 1,5 watt, 2 watt, non di più, appena. E tutto chiuso è 2,5 watt, Claudio. Se lo chiudo del tutto il power, guarda, così è 2,5 watt, e ti dà 100 watt tutto chiuso. Se lo apro, così va a restare 200. Prova a parlare così con 200. Guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comprensibile già, però c'hai una leggera saturazione, mentre tutto chiuso saturazione non ne hai. Vai Massimiliano. Beh, c'è nessuno? Sì, che ci siamo, Luca, buonasera. Ciao già, ciao Claudio, e poi non so chi c'è. Massimiliano Bordose, prova come ti ha detto Massimiliano già, mettilo in quinta e dai appena di potenza d'ingresso, prova già, dora alimentatore si è trovato. A me stai dicendo Claudio. No, ma Gianni sta facendo la prova se riusciamo a tarare bene con l'amplificatore, perché come aumenta satura non si comprende nulla. Eccolo qua. Ora, l'uscello sta adesso. Adesso si è ripreso, ho visto lo sbalzo, da 8 a 9 e 10. Quando lo lascio un po' acceso. Questo è quell'intec che parlo io. Questo va bene, vedi, però Massimiliano deve usare, cazzo. Minchia, ha fatto uno sbalzo, da 8 a 9 e 10. Massimiliano. E io dimmi. Tu adesso l'ho messo a 5 e batti, guarda come va. E si è agganciato? Cappa. Lo vedi, è bello la radio. Adesso quanto te ne sta dando, giusto per capire? E adesso me ne sta dando 150. In quinta marcia con 5 watt e 150, mi pare poco, Adesso così me ne sta dando 200, in sesta. Va bene, in sesta marcia, va bene, cioè te lo vedi, io ti ascolto un baracchino, attenzione. Io sento, in sesta marcia sento, in quinta molto meglio, in sesta marcia si porta una leggera saturazione, leggera, non come prima, così in questo passaggio, capito già, però in quinta marcia andavi molto molto meglio. Comunque come alimentazione sta andando meglio, perché non sento più del Galaxy a posto di 2,5, portali a 3, 3,5, 3,5, può darsi che siano troppo pochi i watt d'ingresso, capito? Quello non deve saturare però Massimiliano, se c'è lo stadio finale a mosso, perché satura fa così? Massimiliano, io sono 3,5. Ecco, aggancia. Guarda. Fa un passaggio, è lungo e lungo. E avevo sbagliato la scala, avevo messa a 100 invece che a 1 km. Ti guarda, così è quasi 200. Io ti ascolto benissimo così per farti capire. Io ti ascolto non benissimo, bene, meglio di prima. Ascolta qua, prova a fare un passaggio col baracchino. Aspetta a vedere che lo ascolto col baracchino. Giusto per intenderci. Guarda Massimiliano, sta prova ad alzarlo appena a vedere se mi senti lo stesso bene. Alzato appena satura. Sì, vai a saturare. E a ICI? Vai. Prova 1, 2, 3, 1, 2, 3. Così io non ti sento saturo. Claudio? Io sì, ma col baracchino peggiora ancora di più qua. Non lo so, o perché siete troppo vicini, qua, io questo non lo so. In lontananza così è buona, da parte mia, poi gli altri, ti ripeto, magari siete troppo vicini. Non lo so, io già col K lo sento bene, non benissimo. Mentre invece col baracchino mi fa molto in saturazione, no? Non lo so perché. Non so che dirti. Questo è quel 574, perché l'ho sempre sentito bene Gianni con questa radio, ma anche con l'Inuit, con tutti i baracchini. Aspetta, è Comodo al DAC a vedere, aspetta già, che è Comodo e poi viene avanti di nuovo. Prova già, Gianni, prova. Sì, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Forse anche abbassato col Bacchichi, ma lo si guarda col Bacchichi in abbassato. No, col DAC un po' meno, però sento sempre la saturazione. Devi metterlo com'era, a 2,5 watt in quinta marcia, e sì, una cannonata. Così è ideale, però, ripeto, rimane il fatto che quell'amplificatore non deve fare così, per me, non deve fare così, perché è un signor amplificatore. Cazzo, gli dai, andà meglio 747, che chissà, ve la vai. E non è così che... Ho chiesto segnali, ma anche segnali buoni fuori, non è così. Era l'alimentatore poco fa che rompeva le scatole, ma adesso questo alimentatore mi sta assorbendo 16, 21 ampere, 22 ampere, dai. Ma ce l'hai da solo a lui, sì? No, c'è solo le luci del coso attaccate, basta. Le luci erano smesso qua, fate andare avanti a lui. Ma ci vediamo, ma questo qual è? Quello che stavo usando io, il baracchino. Che stavi usando tu? Sì, che hai dato a me qualche volta, no? Era blu quello là. No, questo non te l'ho mai dato. Questo qual è? Questo è il Tornado 4005. Ah, questo lo stai usando adesso? Non si sente bene. Sì, io lo che si sente bene. 9,20 abbondante, sì, col baracchino. No Gianni, io non ti sto dicendo, tu cazzo mi devi capire a me, io non ti sto dicendo che non funziona in lontananza, ma non è che puoi parlare sempre in propagazione, no? Cioè se hai bisogno di dare un po' più di potenza anche in città o vicino, non deve fare così, cioè assolutamente, non lo so, vabbè. Non lo so perché, comunque, 747 non te lo faceva questo problema. Io ti ho sempre ascoltato col Galaxy benissimo, solo quando aumentavi la potenza a manetta saturava, ok, perché è normale. Però quando la mettevi a metà era una cannonata. Questo cazzo devi chiudere tutti i watt, non ho compreso perché, è questo che non capisco, capito? Perché quel lineare lo conosco molto bene, cioè quella serie lì io li conosco. Ne ho provato tre, uno di Massimiliano, uno di Stefano, questo che c'ho io, mi sembra una cosa un po' strana, capito? Ma dai, te lo dico, che abbiamo provato, sì, io provo con l'altra parte, con lo base che c'ho, se quello lì non satura nulla nemmeno al massimo, figurati, così non arriva manca 200, dai, sta andando a picchi da 150 a 200, così va. Comunque sono picchi positivi adesso. Sì, c'è picchio positivo. Sì, ma l'abbiamo fatta la prova, infatti io ti ho detto, stabilisci una radio con lineare, no? Con lineare. Stabilisci una radio. Quando vuoi parlare con lineare e quella radio, hai quella. E col Galaxy lo metti a manetta e moduli senza lineare. Capito? Quello ti ho detto io. In modo che ti fai due cose separate. E vabbè. Già me lo gestisco io le cose, con questo lo uso così e con l'altro lo uso a manetta, perché mentre nella manetta con l'altro non succede nulla, non fa manco tutti quei rumori, tricchi, tracchi, tricchi, trucchi, per l'alimentatore che te l'ho pagato quasi 200 euro, c'era il BBV, adesso non mi ricordo, però cazzo, mi sta dando problemi, no? Ma non ho problemi dall'inizio, entrava in protezione, te lo ricordo che te l'avevo chiesto, che l'altro va in protezione. va in protezione solo se inverti i cavi. Se io inverto dal negativo al positivo, dal positivo al negativo, si spegne, perché va in protezione, c'è una protezione, il mio, il tuo non lo so. Io l'ho pagato, ma 5 anni fa mi sembra, 160 euro, 160 euro 5 anni fa, non mi ha mai creato problemi, capito? Per quello te l'ho detto. Oh, scusate, che devo fare una telefonata. Non lo so già, io ti sto dicendo, per conto mio, se c'hai lo spazio ti metti quella radio che abbiamo provato che non va in saturazione, te la metti con lineare. Magari nel gas ti attacchi il 747, visto che ce l'hai, e c'hai due radio, tutte e due con gli amplificatori, però te li gestisci tu. Questo è quello che avrei fatto io. Capito? Tant'è vero che io adesso faccio il DAC e lo metto col B300P e lo lascio stare fisso, mentre gli altri li uso con l'LA1000. Faccio così anche io adesso. Adesso provo a attaccare l'altra, facciamola proprio con l'altra, così almeno mi dici come va. Esatto, già, così te ne lasci una di radio. Ecco, questo lineare va bene con questa radio, la lascio stare lì. E il Galaxy lo lasci libero. Ma se vuoi dare potenza anche al Galaxy, ti puoi collegare anche il 747 e te lo lasci fisso col Galaxy, capito? E beh, per il vei. Ha detto per il vella. Per il vella. Ha detto per il vella. Attento, Claudio. Via, Nara. Guarda con questo come va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto, però non sento amplificazione. Guarda, a vedere, 1, 2, 3, prova. Ah, vedi che questo va bene. Hola, questo qui è, però con questo è basso di basso, un bel, mi dà 100 watt in cose, come l'altro, come se avessi messo il 747. Lì il problema già. E lì il problema è sta rompendo le palle, perché più bassa la potenza e meno watt ti dà, è lì il problema. Però questo va bene, radio 5 è perfetta, con l'eco va bene. Comodo, comodo, comodo. Stamattina mi sono anche smontato il rosmetro, pulito, fatto, tutto tanto, per metterlo a posto, dai. Adesso mi sta segnando, sì, 100, 100 perfetto. Cosa avete? Se ti accontenti va bene così, se no è inutile avere un lineare che dà 300 watt e poi lo devi usare a 100 watt. Bisogna trovare un compromesso, bisogna trovare un compromesso. Ma io lo volevo nel Galaxy, capito, perché il Galaxy va già male, l'alimentatore minore che non mi piace, cazzo le cose, mamma mia, lascia buttare. E poi non ti conoscessi, cazzo, sei già in paranoia, ma devi trovare un compromesso già, devi trovare un compromesso, quell'alimentatore deve andare bene, e se no, cacci i soldi, te ne compri un altro, grande, da 50 ampere, e lo colleghi a quel lineare, perché qua, io ce l'ho separato, un alimentatore a parte, da 50 ampere, anzi, 100 ampere, 100 ampere, di cui 40 li sto usando a 24 e 60 li sto usando a 12. Quindi un alimentatore separato, perché altrimenti questi lineari non funzionano bene come devono funzionare. Te ne compri un altro, te lo colleghi, bello come piace a te, con gli strumenti, tutto, e ce la biglia in cu. È bello che su internet non ci sono alimentatori che mi piacciono, sono tutti quelli switching per mettere nei cosi, nei computer. Cosa, ma ti pare uno come te devi idratare chissà la mondezza? Chiami cazzo alla Hobby Radio, chiami a dove vuoi, mi serve un alimentatore da 50 ampere, chiami a quell'amico nostro, io non c'ho più il numero, l'ho perso, chiami a, come si chiama, a Media Globe, chiami cazzo una ditta seria che ti mandi un alimentatore serio, lo paghi, però c'è un alimentatore serio, cosa compare su internet? E buono, se vedo, vediamo. Cazzo su internet andate a comprare la mondessa, chiama la IL elettronica, chiama dove vuoi, Tecnocomunicazioni, chiama dove vuoi, ce ne sono, Hobby Radio vende bene, c'è anche Montagnani che vende bene, chiami una ditta seria e ti fai mandare un alimentatore serio almeno da 50 ampere e così si è a posto. Cosa, quando ci comparato lo dai, ma io cosa messo, ho giubilato su internet, ho chiamato e me lo sono fatto mandare, 220 euro di alimentatore, ma c'hai un alimentatore serio, non faccio mondezza di internet, no. Certo, noi cosa vedono, come dite di gandule. Però va bene, dai, non è così feo, no, cazzo. L'altro fa stazione, basta, che lo dica Fabrizio, se me lo controlla. Controlla a vedere cosa cacchio c'ha questo alimentatore. Perché è quello lì che ti fa andare male, anche manda laterale, non schicchiato. Aspetta, vai un attimino a manda laterale, vedete? Io sono col baracchino, vediamo, sono in banda laterale, già ce l'ho le banda laterali, prova. Guarda, 1, 2, 3, prova. Ora. Me qua già sta facendo clic. Si è spento l'alimentatore, ma ci vediamo dove si è andato a finire. No, si è spento, ha fatto chi. Non ce la fa manco questo mandare. Mi sentivi bene il mandare laterale con questa radio? Oh, scusa, no, non sei riuscito a centrare. Scusa, vai. Ma mi senti sempre bene con questa? Sì, è forte più o meno come l'altra. Alla grande, 9.10 con picchi a 9.20. Aspetta, devo fare un paio di passaggini che poi devo staccare e scendere un attimo la Gigi. Allora, scusa un attimino, da questo passaggio a questo passaggio cosa ha cambiato? Appena a qualche punto, niente di che. No, la radio ha aumentato più così, o guarda un po' così è più forte. Così c'ha più tonalità medio-basse, l'altra invece è più tonalità medio-acuta. Ok, là. L'eco, vedi un po' se lo posso lasciare così, cambio. Alla grande. Oppure lo posso aumentare un pochino così, cambio. Uguale, perfetto, in una maniera o nell'altra. Ok, dai, va bene, lascio tutto acceso, poi vado a ritirarmi quella radio. Là. Ci sentiamo dopo, qua, ti mando un vocale, ciao. E io, ciao Massimia, dopo. Vai già, quindi non ce la facciamo a fare una prova in banda laterale. No, io ti avevo già centrato, mosso appena il clarifer. No, io non sono riuscito a centrarti, ma non dipende da te, dipende da me, perché non ho avuto il tempo di farlo, capito? No, io mosso appena il clarifer, è perfetta sta radio. E ti ho centrato subito, capito? Va bene, già, cosa vuoi che ti consigli? Io più di quello che ti ho detto non posso fare. Io, personalmente, nelle tue condizioni, avrei chiamato una di quelle aziende che tu conosci. Signori belli, mi serve un alimentatore buono, da non spendere molto, ok? Almeno da 50 ampere. Il gruppareggi, lo attacchi, Gianni, le metti a lui, tranquillo, signorino, e agli altri radio le lasci il proxer senza niente. E a lui lo metti a parte, sincero, così mi attacchi all'alimentatore e attacchi a lui, e tu vedi che hai risolto i problemi già, ma fotti il dito. Ma io ho un alimentatore per ogni cosa, Claudio, ce l'ho così, ce l'ho per ogni radio, nelle cose, nell'alimentatore del lineare, ci sono attaccate le lucette che si accendono nel rosmetro basso, tutto quello, basta, tutto lì, poi il resto è... c'è solo quello, E da quanto è quell'alimentatore che mi hai mandato? A 25, da 30? 35 ampere. 35 ampere sono tanti, ma come fa? Sono tanti 35 ampere, ce la deve fare da solo, tranquillo e sereno, non riesco a capire. E non puoi invertire già, mettere 35 ampere ai ai baracchini. E il 50 ampere, quello della Prox, era attaccarlo da solo lì. Non puoi farla questa cosa. Era già attaccato così, Claudio, te l'ho detto. Io lì nel Prox, quello grande, da 50 ampere, l'ho attaccato solo il lineare e le lucette del ROS metro basso, metro bassa. Tutto il resto, le altre radio hanno alimentazioni a parte. Cazzo è sta cosa che non ce la faccio, io c'ho un LA 1000, forse perché io lo sto facendo andare a 24, magari a 12 mi crea lo stesso problema, non so cosa consigliarti, boh, perché se hai fatto tutte le prove, hai messo quello da 50, hai messo quello da 35, e l'unico problema è metterlo come era e tenere la potenza un po' più bassa, chiusa dal Galaxy, però chiaramente non hai, sì, vabbè, lo puoi, quando c'è propagazione puoi darle tutta la potenza e ti sentono lo stesso in lontananza, mentre quando lo devi usare qua lo tieni a metà potenza, anziché 300 watt lo tieni cazzo da 150, 180. Sì, ma a me usarlo qua, io adesso lo sto usando per fare prove, ma lo più, ma vengo e lo uso solo in propagazione, cosa me ne importa di venire in città? Lo sto solo usando per fare le prove, voglio trovare, diciamo, la combinazione è giusta, ma a quanto pare non si trova. Il problema è che se io me ne ordino uno uguale di questi alimentatori, potrei anche farlo subito, però se ne ordino uno uguale magari non ce la fai, è un casino, e poi magari ho speso soldi inutilmente. Invece questo qui lo vorrei dare a Fabrizio, se me lo controlla, a vedere cosa cacchio c'ha. Appunto, già, può darsi che io ti ripeto, io ce l'ho uguale al tuo, ma l'aveva comprato Vittorio Giove perché lui lo pagava di meno, capito? E l'ho pagato, ma adesso mi ricordo se 4, 5 anni fa, 6 anni fa, non mi ricordo, 160 euro. Ma giuro, ti giuro che non mi ha mai creato problemi. E di radio ce ne erano, adesso ce ne di meno attaccate, ma prima c'erano 4 HF. E io un giorno ho fatto la prova, ho schiacciato tutte e quattro le portanti dei microfoni da tavolo, c'erano 2 SM20 e 2 MC60. E non si può usare manco a misericordia, nel modo più assoluto. Perché è un buon alimentatore. Se ne prendi un'altra marca, un altro tipo, però che abbia almeno 50 ampere. Non è che c'è solo la Prox che fa alimentatori, no? E ce ne sono. E adesso guardo, vediamola. Per il momento va bene questo che c'ho. No, questa è così una cannonata, va benissimo. Hai meno potenza, però stai andando alla grande. E vabbè, questo qui è l'apparato che da dentro non è mai stato aperto, perché se lo apro come potenza spinge di più, solo che questo qui è messo a 2,5 watt, è stato messo apposta per deve essere pilotarlo con qualche lineare grosso, non lo so, io radio a 2,5 watt non ne ho. C'ho il DAC regolabile che va da 0 fino a 50 watt in banda laterale, 25 in AM, poi c'ho questo che sto usando che ha 6 watt modulati quasi 8 e non lo tocco, cioè non l'ho toccato io. Adesso ti aggancio lineare, se ti aggancio lineare non cambia niente la modulazione, capito? L'Ignoniti lo stesso c'ha 6 watt, non cambia niente la modulazione, l'Intec il 3104, quello che ho preso da te c'ha addirittura 7 watt perché l'avevo sollevato io, 7 watt non cambia niente, il Pony c'ha 5 watt, il Pace c'ha 8 watt, cioè non le fa niente, capito? Non capisco quello perché a 3 watt già inizia a saturare col Galaxy, c'è un disaccordo allucinante, boh. Vabbè, io mi ricordo che Alessio regolava anche dal lineare, c'erano delle bobine da regolare, specialmente e vabbè già ZG, però io il mio è originale, il B300, in sesta marcia mi satura leggermente, non so il perché, però con i watt di queste, mentre con l'Elbes che c'ho, e col DAC che c'ho i watt regolabili, anziché metterlo a 5 lo metto a 3, non mi satura per niente, lo posso usare anche in sesta marcia, ma è normale, ZG è uscì, ma quello c'è i finali a MOSFET, non capisco perché si stia comportando così. Adesso lo provo con l'altro, lo provo col 2009. No, a me mi piaceva il Cobra, col Cobra tu me l'hai fatto sentire, mi sembra. Claudio, con questo come va? Con questo mi dà più va. Sì. Ola. questo già è 3009 o il Cobra? 3009. Questo va bene, vedi, quanti watt ti sta dando? Quasi 30. E la radio, e come che non si è agganciato? Vedi, dipende dalla radio, non è questione di cose. Dipende proprio dalla radio. E allora è grazie già che sta andando a farsi fare in culo, cosa vuoi che ti dica? Però ce li hai le radio. Io ti capisco che per te il Galaxy è il numero uno, come a me piacciono questi vintage che ho, mi piace modulare con questi anche, non solo col K, però già trova una soluzione, questa va bene, se ti sta dando quasi il massimo della potenza, infatti il segnale sto guardando è quasi 9 più 30 pieno, e la radio è bella già. Con questo qua, vedi, si può già modulare. Proviamo a mandare a terra a vedere se resiste. Ma dove sei? In AM, in USB, dove sei? Ma metti il clarifier, gira il clarifier dov'era, che se no non ti ascolto. Perché ti sento così? Io sono in AM e ti sento come in banda laterale. Non sei in AM, sei in FM, non in AM. In FM sì. No, no, tu eri in FM. Io non ho FM, Gianni, io ho la M, non FM. Io sono in AM, però ti sento male. Non lo so se dipende da me o da te. Gira il clarifier, ti ho detto, rimetti il clarifier com'era, che sei fuori frequenza. Devi mettere il clarifier com'era, sei fuori frequenza. Io non lo tocco nulla, io ho il baracchino, non è che devo toccare niente. Metti com'era. Metti com'era, io non ne ho di niente da toccare qua. Metti com'era, il clarifier. Oh, cos'hai toccato? Boh, mamma mia, come sto. Cos'hai toccato? Boh, se stavi andando bene poco fa. Metti il clarifier al centro, mettilo a zero, mettilo com'era. Eccomi, perché il clarifier qua va anche in AM, questo non lo sapevo. Adesso sono così. Anche questo va in AM, se sposto il clarifier mi senti male già, io lo tengo al centro. Poi quando passo in banda laterale lo sposto o leggermente a sinistra o leggermente a destra. Però poi lo devi riportare al centro, se no ti sfasa la modulazione. No, ma non tutti gli apparecchi, solo questo qua, gli altri no. Gli altri clarifier, anche se lo tocchi, lo lasci come l'hai toccato, non te la sfasa. Non funziona in AM, capito? No, 3009 già rubati, non ti preoccupare, il Connex, il 3009, il Superstar, tutti lo fanno, quelli lì lo fanno tutti, lo fa anche questo baracchino, questo è un Midian 574, è una favola in SSB, ti ascolto come la M, perfetto, e ho toccato leggermente il clarifier, è spostato proprio appena. KK, eia, va bene, adesso spendo tutto. Quindi decidi, allora, devi constatare che abbiamo fatto le prove, il 3009 con la massima potenza va bene, così com'è senza toccare niente. Io direi di fare una cosa, il 3009 te lo usi con il lineare grande, al Galaxy gli attacchi il lineare piccolo già e hai risolto il problema. Lo devo ricomprare. Ah, dato là, no, cazzo, non si danno mai quindi. Non l'ho dato, no, claro, già lo sai che l'ho messo in macchina. Ah, io già mi sono metticchiato, esatto. Va bene, il gruppo ha legionato, già mi in culo. Cavaga, vai adesso vediamo, eh. Solo che la GPC riprende un bel carico, 90 euro, 96 euro. Ehi, addirittura. Fusaro non te lo può ordinare, Fusaro ce l'ha la CTE lo stesso, te l'attacco la CTE. C'è un Midland e CTE mi pare. Non lo so se Fusaro ce l'ha, va bene, lo posso vedere da io. Però a me mi interessa più l'alimentatore, lo voglio come quello che c'avevo, che mi piace. C'ha gli strumenti grandi, fa stazione. Ma della proxy stai dicendo? Sì, come quello che c'è. Mi piace quello. Aspetta, c'è qualche problema che devo risolvere. Magari cambiare qualche condensatore, qualche cosa. Non so che cosa gli abbia pigliato. E vabbè, quello lo dai a chi sei tu e te lo fai controllare sotto tensione con gli strumenti e lui si accorge se c'è qualche condensatore in perdita, te lo mette a posto. Però se ti prendi il Proxel, prendi il Proxel perché è un buon alimentatore già, io non ho niente da dire a quell'alimentatore. Può succedere che si sfasci qualcosa, per carità, sono sempre componenti elettronici. Però riprenditi un Proxel e fai come ti ho detto io, ti attacchi il Proxel con le lucette dello strumento diretto al lineare grosso e l'altro proxy lo attacchi come lo devi attaccare con gli altri baracchini e ragazzi lo fai andare come deve andare. Aspetta, ascolto un messaggio. Aspetta già che mi collego all'Elbex a farlo andare un po'. E io già gli ho fatti i getti stasera. Ehi, questo è il baracchino, non ci sta a fare niente con i base, capito? Io adesso l'ho tolto dentro l'armadio, lo faccio andare un po', dai. Aspetta che lo collego. Brava, capo. Ascolta, come va di modulazione? Bene? Eia, già va bene. Ah, meno male. Questo ad esempio, vedi, questo adesso sono, no? Questo da 12 watt, 15 watt modulati, dai. E questo è quell'Elbex famoso, da 15 watt modulati. Però c'è la potenza regolabile, capito? Cava, cava. Questo qua, adesso lo metto a 10 watt, vediamo quanto fino, e 9 watt mi sta dando, dai, 9 watt. Questa è una bella radio, solo che veicolare io non la uso mai, capito? A me piace in base, adesso metto le cuffie a vedere se è un bel forte la radio, ma mi sembra che stia spingendo un bel, no? Già va bene, sì, va bene. Questo è il ricordo del nostro carissimo Beautiful. Grazie, quanto era simpatico, mi faceva ridere un po'. Devo dire a me, io sono andato al Alghero prima del Covid, sono andato a trovare alla moglie, ci abbiamo fatto una chiacchierata. Ma di che cosa è morto non si sa? Che cosa è morto? Aveva un problema, praticamente è partito dal piede. Ma non c'aveva il fuoco di Sant'Antonio al piede? No, va via la gotta, va via, no, fuoco di Sant'Antonio. Infatti lì mi avete di non andarci che era contagioso. Ho detto, Pila, già passato troppo, già non fa perché sono contagioso. Ma detto così. Contagioso, e poi ridotto perché non si faceva controllare, capito, un casino. Non sai com'era Pinangelo? A volte ti trascuri bene. Lo so, però quando ci sono queste cose ti devi far controllare, non è che puoi stare così, capito? Poi lui non faceva mai le cose fatte bene e quindi era un casino. Vabbè. Capa di Rogero, già va bene, dai. Giusto per far andare un po' sto baracchino che no, se no non lo uso quasi mai. Va bene che va bene. Mo, se vuoi ti dico. Perivella. Perivella. Se vedi quanto è bello, come lo fa. Cosa già? Io non ho mai trovato, se lo vedi come l'ho fatto, bello, luminoso adesso. Oh, bello. E stamattina mi è venuto l'Alzheimer, l'ho smontato, pulito con l'aria, con lo spray secco, e poi l'ho rimontato, pulito tutto bene, l'ho piazzato le lucette, blu. Gappa, ma adesso sei sempre col 3900 agganciato? No, sgancia. Ah, ce la fai agganciare con l'Elbex se rimane sempre bella? Eccomi qua. Oh, perfetto, non cambia niente. Questa è una bella ricezione. Vabbè, dai, io ho già appurato che la radio non è questione di disegnare, va benissimo. La radio è già, è quel Galaxy che già crea problemi a sé. C'è qualche problema nella radio? c'è qualche problema alla radio, perché le altre radio vanno benissimo. E chi lo sa? Cazzo, se va bene questa, cosa dai chi vi la ciccischia? Ne lasci una con quel con quell'ignare lì, a voglia. Sì, da. Interessante che te l'ho detto, basta, basta andare come, come si dice alla, alla cosa lì al computer, guardi se c'è, se trovi qualcosa trucco un pareggio, se no chiami alla proxy ti fai mandare un altro alimentatore uguale a quello, né più né meno. Sì, ma se si può aggiustare come non spesa, lo aggiusto, capito? Ah, senza un bel dubbio, ma già si può aggiustare, c'è qualche componente in perdita, qualche stronzata. Mi si è spento parlando, mi si è spento. Poi se l'ho resettato e si è riacceso e non l'ha fatto più. Però come scalda fa casino, capito? Poi si sente, quando tu moduli, si sente come se faccia il ritorno di radiofrequenza nelle, nell'alimentatore, capito? Addirittura? Sì, è come se tu parlassi con l'alimentatore, si sente... sembra che quando tu parli sembra che... Io ho guardato se era lineare, che era il radio, invece no, era l'alimentatore, forse... non so se è un radio o qualche cosa del genere, perché si sente come se ci fosse un corto. Ecco, forse qualcosa che sta friggendo, qualcosa che va in perdita, sì. Quando fa così, effettivamente c'è qualcosa in perdita, sicuramente. Cava di cava. E si conferma, dice quello, KK. Dimmi se te lo mando, come l'ho fatto lo strumento. Fammelo vedere. No, io già ce l'ho illuminato, però luci bianche, blu no. Ho dato Massimiliano, l'altro che c'ha lui. C'ha le luci bianche, capito? Normale. Attento, perivella. Attento, perivella. Perivella. Oh, Claudio. Nara, bello, sempre blu l'hai fatto. Ehi, però c'è il riflesso della luce che c'era accesa, non si vede bene. Adesso se lo vedi al buio com'è, è bellissimo. Ah, già si vede che bello, già va bene. E un'altra cosa è fatta, perché avevo le luci fulminate e ne avevo due blu, e ah, ma di tipo cosa mi danno. Ce l'avevo fulminata, non era bruciata, ma quelle luci normali si bruciano sempre quelle. Ne ho messo due LED con la resistenza. LED ci vogliono per la resistenza, se no un casino, si bruciano sì. Le lampade normali si fanno nere, si bruciano subito. Certo che sì. Cava cava. Aspetta un attimino che voglio vedere una cosa. Fai fai, già sono qua io. Sono qua qua qua. No, perché questo alimentatore l'ho attaccato, non ho guardato manco a quanti volti mi sta dando, aspetta. Controlla, controlla, non attaccare mai le cose se sta a controllare, controlla prima. Perfetto. Brecco. Avanti Fabi. Ciao, ascolta, devo regolare un attimino il Mickey Game di questa radio. Vai, vai, poi ti dico una cosa. Claudio, guarda che sto, va bene o posso aumentare leggermente? Per me potresti aumentare, ma va bene anche così. Ciao Fabi, buonasera. Ciao, buonasera. Guarda un attimino, che aumentato leggermente. No, adesso stai fischiando. Adesso ho abbassato leggermente. No, sta innescando Fabri, sta fischiando. Ecco qua, 1, 2, 3, parte, 1, 2, 3, prova, sta innescando ancora? Sì, sta innescando, la radio non mi piace, è brutta, sta gracchiando. Appena si è entrato andava bene. Sì, è vero. Quanti volte ti sta dando già? 13,8. Va bene, lascialo così, anche a 13,5 va bene. Sì, infatti. No, perché qua c'è il tasto volt e watt. E tu premendo il tasto sai quanti volt ti dà e quanti ampere ha sotto. Esatto, e ma metto la 13.5 già va bene. No, è fisso così. Ah, non è regolabile? No, questo non l'altro, sì. Ah, va bene, lascio la 13.8 già va bene. Fabri, sta manomettendo l'apparecchio. Sta facendo il dottore. Lui c'ha sempre da fare. Attenzione, volete per una prova? Alternata sottofondo, Fabrizio, e radio bassa. E bassa la radio. C'è l'alternata però anche. 1, 2, 3, prova, prova, sempre bassa. Secondo me è perché l'alternata che ti copre, che ti abbassa la radio, Fabrizio. C'è sempre l'alternata, oppure avete detto che non bisogna fare le prove. Sì, adesso però, poco fa non ne ho visto. Quando sei entrato andava bene, c'era solo da tirare appena più sul micchigine e poi... C'è, guarda adesso, 1, 2, 3, prova. No, non ci siamo, Fabio. Alternata. È anche abbastanza forte, ti copre quasi la modulazione. Oh, Fabri, forse lo sta regolando, claro, sta mettendo in sesto. Ai, ai, ai. Andavè. Vedi, questo è il Max. Cioè, i suoi 15 watt, va bene, baracchinetto. E sta andando alla grande. Ma se io voglio il garage lo sollevo fino a 20 watt, non so se lo fa. È che gli ho dato poco, gli ho dato 9 watt. Ma se voglio lo sollevo anche di più. No, perché non lo sollevi a manetta, lo usi liscio. Lineare te lo metti sul 3009. Boh, tanto, non va bene. Sì, infatti. Allora, visto che non andava io lineare, dalle tutta la potenza c'era Biglielucci. Il lineare te lo usi sul 3009 che fa benissimo alla grande. No, ma io qua gli posso dare anche 100 watt, capito? Con lo 747 va bene lo stesso. 80-100 watt glieli dà, capito? Esatto, come avevi prima, infatti te l'ho detto. Io ti ho sempre sentito, ti ho sempre elogiato col Galaxy, perché la miglior modulazione che io sentivo in 27 era di quella radio, anche col 747. Poi è iniziato ad andare per i fatti suoi quella radio. No, la radio va bene. Usata per parecchio tempo di notte, infatti. Probabilmente che c'era il microfono troppo alto, in più c'era il bancheggio alla manetta e il coso modulatore sorpresa. Eia, ma quando attacchi quello grande crea il problema della saturazione. A questo punto me lo metto alla massima potenza e me lo uso senza lineare. E il lineare lo uso con il 3009 che va benissimo. No, ma il lineare per comprarmi un 747 lo uso al minimo e mi dà 100 watt. Ed è la stessa cosa, non sa. Ah sì, col 747 sì, va bene. Ah, ma no, sto dicendo con quello che c'ho, metto al minimo del power, mi dà 100 watt ed è come 747, non sa come va bene. Ah beh certo, te l'ho detto poco fa, se ti accontenti così va bene, alla grande. Beh, vuoi solo farmi aggiustare questo alimentatore, adesso che lo voglio dire a Fabrizio, se me l'aggiusta. Che la giusta, quell'alimentatore sta erogando, non è che c'ha qualche componente magari in perdita che ti crea quel problema lì, ma non è che non accende o non funziona, sta funzionando, è che c'è qualcosa in perdita da controllare bene con la strumentazione. Ma infatti, c'era qualcosa in perdita perché poco fa modulando mi si è spento, cazzo, non l'avevo mai fatto, ce l'ha fatto un'altra volta. Si è spento, proprio spento del tutto. Perché vuol dire magari va in protezione, c'è qualcosa in perdita e ti chiude l'alimentazione, cioè è da controllare, te l'ho detto, ma il funzionamento c'è, non è che se non accendeva, se non erogava VOLS, allora era un altro discorso, ma siccome eroga tutto, però c'è qualcosa da vedere. E quando si stava spegnendo faceva... quello di la Fabrizio. Io non so cosa dirti. Se ci sia qualche problema sicuramente, però che cosa non lo so. Glielo do, se me lo prende glielo do, quando c'è tempo me lo fa. Tanto c'ho l'altro, uso questo qui per il momento che lo controllo. Gappa gappa. Fabri, entra io, non scappare. Ehi, quando sta operando lui non rispondono. Aspetta un attimo. Ehi, ehi. Bellino veramente, notturno bellino, con tutta la fascia di vicino, e lo stesso pezzo del blu, e anche c'è due anni di Gappa di Roggio, già va bene, aspetta che vado a bere, tanto c'è niente a Fabrizio, già ci sei tu. E mi sa che sta tutta la cappella, attenzione 1, 2, 3, prova. Adesso va meglio Fabri, abbassa per me chi chi. Ecco, adesso l'ho abbassato un po', come va? È molto forte, molto, poi si sta per strappare. Abbassa appena ancora. Ecco, abbassata ancora, forse così va meglio. Così sei limpido recoaro. Va bene, dai. Poi si dirà che andava bene. Sì, va, e quindi no, ma deve essere ogni tanto qua troppi cavi che circolano di strumenti accesi quando fai, secondo me cosa fa casino, lo so, cioè, devi trovare anche la quadra quando accendi un apparecchio, quando c'è tutto acceso. Fabri, c'hai tanti garage, fate un laboratorio, così almeno vai lì e sei tutto tranquillo, ti fai una bella un bel banco, tanto la passione ce l'hai. A proposito di passione, c'ho l'alimentatore che non mi sta andando bene, Fabri, quello da 50 ampere. E quando lo attacco fa tru tru tru tru tru, non riesce a resistere, 300 watt non deve resistere. Ed è da 50 ampere, ha sempre andato bene.